Capitolo 33. Più di una volta nel suo vagabondare per il parco accadde ad Elizabeth di imbattersi inopinatamente nel signor Darcy. Le parve che fosse proprio un avverso destino a condurlo là ove non si recava mai nessuno, e onde evitare che ciò avesse a ripetersi, ella si fece premura di informarlo che quello era uno dei suoi rifugi favoriti. Fu dunque molto strano che la cosa potesse ripetersi una seconda volta, eppure fu proprio così, e persino una terza. Sembrava una maligna ostinazione o un voluto dispetto, perché in quelle circostanze egli non si limitava semplicemente a qualche domanda formale, seguita da un impacciato silenzio per andarsene subito dopo, ma riteneva addirittura necessario ritornare indietro ad accompagnarla. Non diceva mai granché, né ella si dava la pena di conversare o di ascoltare molto, ma nel corso del terzo incontro Elizabeth fu colpita dal fatto che egli le faceva strane domande sconnesse. Se le piaceva di stare a Hansford, se aveva un debole per le passeggiate solitarie e che cosa ne pensava della felicità dei coniugi Collins. E parlando di Rosings, come di una casa che ella non aveva ancora perfettamente imparato a conoscere, sembrò sperare che ogni qualvolta fosse tornato nel Kent avrebbe anche lei soggiornato in quella stessa casa. Così almeno parevano significare le sue parole. Che pensasse al colonnello Fitzwilliam? Elizabeth credette che se quei suoi discorsi volevano alludere a qualche cosa, il suo pensiero doveva essere rivolto in quella direzione. Si sentì un poco disorientata e fu lieta di trovarsi al cancelletto nella staccionata di fronte al presbiterio. Un giorno, mentre passeggiava, era intenta a rileggere l'ultima lettera di Jane e si era soffermata su un passo che dimostrava che Jane non aveva scritto in uno stato d'animo sereno, quando invece di essere nuovamente colta alla sprovvista dal signor Darcy, si accorse levando gli occhi che le veniva incontro il colonnello Fitzwilliam. Ripose immediatamente la lettera e con un sorriso forzato gli disse: «Non sapevo che lei venisse talvolta da queste parti. Ho giusto finito di fare il giro del parco come faccio di solito ogni anno e ho intenzione di chiuderlo con una visitina alla casa parrocchiale. Vuole proseguire lei?» «No, sarei tornata indietro anch'io fra un minuto.» E si volse infatti così che insieme si avviarono verso il presbiterio. «È sicuro che lascerà il Kent sabato?» e la domandò. «Sì, se Darcy non rimanda di nuovo la partenza, ma io sono a sua disposizione. Combina lui come gli piace.» «E se proprio la combinazione non lo soddisfa, egli trova perlomeno gran diletto in questa facoltà di scelta. Non conosco nessuno che sembri godere quanto il signor Darcy della facoltà di fare come gli garba.» «Gli piace fare a modo proprio, non c'è che dire», rispose il colonnello Fitzwilliam. «Ma questo piace a tutti. Soltanto lui può permetterselo più di molti altri, perché è ricco e molti altri sono poveri. Parlo per mia esperienza. Un figlio che non sia primogenito deve essere avvezzo alle rinunce e alla dipendenza. Lei comprende? A me pare che il figlio cadetto di un conte debba saperne ben poco di rinunce e di dipendenza. Dica seriamente che cosa ne ha mai saputo lei. Quando è che le ristrettezze finanziarie le hanno impedito di andare dove le talentava o di procurarsi quel che le piaceva? Codesti sono affari di famiglia e forse non posso dire di aver sperimentato molte difficoltà del genere, ma in faccende di gran peso può darsi che abbia anch'io a risentire delle ristrettezze finanziarie. I figli cadetti non possono sposarsi come vorrebbero, a meno che non vogliano sposare donne ricche, la qualcosa ritengo che capiti spesso. Le nostre abitudini dispendiose ci rendono troppo dipendenti, e non sono molti quelli che nella mia stessa posizione sociale possono permettersi di prendere moglie senza fare una certa attenzione al denaro. E per me questa, si domandò Elizabeth arrossendo all'idea, ma riprendendosi subito, disse in tono gaio: «E di grazia, qual è il prezzo consueto per il figlio cadetto di un conte? A meno che il primogenito sia molto malandato di salute, non credo che chiediate più di 50.000 sterline.» Egli le rispose sullo stesso tono. E l'argomento cadde. Per interrompere un silenzio che avrebbe potuto indurlo a crederla scossa da quel colloquio, ella soggiunse subito dopo: «Immagino che suo cugino si sarà fatto accompagnare da lei essenzialmente con lo scopo di avere qualcuno a propria disposizione. Mi meraviglio che non si sposi, onde rendere durevole una comodità di questo genere. Ma forse per il momento supplisce bene sua sorella, poiché essendone l'unico tutore, egli può farle fare quello che vuole.» «No», disse il colonnello Fitzwilliam, «quello è un privilegio che gli deve dividere con me. Nella tutela della signorina Darcy c'entro anch'io.» «Ah sì? E che specie di tutori siete, di grazia? Perché Vi dà molto pensiero il vostro incarico? Le signorine di quell'età sono talvolta un po' difficili da trattare e se è dotata del vero spirito dei Darcy, è probabile che anche lei voglia fare a modo suo. Nel dire questo osservò che egli la guardava con aria grave e il modo in cui le domandò subito perché supponesse che la signorina Darcy fosse incline a dar loro qualche preoccupazione, la persuase di avere in qualche modo rasentato la verità. Rispose senza indugio: «Non occorre che si spaventi. Non ho mai sentito nulla di male sul conto di quella signorina, per quel che ne so io. È anzi una delle creature più amabili di questo mondo. Gode tutte le simpatie di certe signore di mia conoscenza, la signora Hurst e la signorina Bingley. Mi pare di averle sentito dire che le conosce. Le conosco un poco. Hanno un fratello simpatico, un vero gentiluomo. È il grande amico di Darcy. Ah, sì!» esclamò Elizabeth in tono asciutto. Il signor Darcy è straordinariamente buono col signor Bingley e si occupa di lui in modo che più non si potrebbe occuparsi di lui. Già, credo che realmente Darcy si occupi di lui in quelle faccende in cui egli ha maggiormente bisogno di cure. Da qualcosa che mi ha detto durante il nostro viaggio qui, ho motivo di credere che Bingley gli debba essere molto grato. Ma dovrei chiedergliene scusa perché non ho diritto di supporre che fosse proprio Bingley la persona a cui alludeva. È tutta una mia supposizione. Di chi vuol parlare? È un fatto che naturalmente Darcy non vorrebbe fosse universalmente conosciuto, perché se la cosa dovesse giungere all'orecchio della famiglia della signorina sarebbe oltremodo spiacevole. Può star sicuro che io non ne farò parola. E si ricordi che non ho molto motivo di supporre che si tratti di Bingley. Ciò che mi disse è semplicemente questo: che si felicitava con se stesso per aver di recente salvato un amico dai guai di un matrimonio quanto mai imprudente, ma senza far nomi o fornirmi maggiori particolari. E io ho sospettato che si trattasse di Bingley perché lo ritengo il tipo di giovanotto più facile a cacciarsi in un simile impiccio e perché so che hanno passato insieme tutta l'estate scorsa. Le ha spiegato il signor Darcy le ragioni per cui si è messo di mezzo? Ho compreso che sussistevano fortissime obiezioni contro la signorina. E a quali artifici ha ricorso per separarli? Non mi ha parlato dei suoi artifici, mi ha detto soltanto quanto le ho testé riferito. Elizabeth non rispose e continuò a camminare col cuore gonfio di indignazione. Dopo averla osservata un momento, Fitzwilliam le domandò come mai fosse così pensierosa. Sto pensando a quello che mi ha raccontato. La condotta di suo cugino non è consona al mio modo di sentire. Perché mai doveva ergersi a giudice? Lei è incline a definire intrigante la sua intromissione? Non vedo che diritto avesse il signor Darcy di decidere della bontà dell'inclinazione del suo amico e perché soltanto in base al proprio giudizio egli si sentisse portato a stabilire come e in che modo quell'amico sarebbe stato felice. Ma poiché non siamo al corrente di alcun particolare, non è giusto condannarlo. Non è da credere che si trattasse di un forte affetto in quel caso. Questa è un'ipotesi abbastanza logica, ma sminuisce tristemente la portata del successo di mio cugino. Questo fu detto per Celia, ma parve dare ad Elizabeth una così fedele immagine del signor Darcy che la non si fidò di rispondere, per cui mutando improvvisamente discorso conversò di cose insignificanti finché raggiunsero il presbiterio. Qui, chiusa nella sua stanza, non appena l'ospite se ne fu andato, poteva ripensare senza essere interrotta tutto quanto aveva udito. Non era nemmeno da dubitare che l'allusione valesse per altri che non fossero quelli che le stavano a cuore. Non potevano esserci al mondo due individui sui quali il signor Darcy esercitasse una così limitata influenza. Che egli avesse avuto parte nei maneggi a cui si era ricorso per separare Bingley da Jane, non ne aveva mai dubitato. Ma ne aveva sempre attribuito il piano e l'attuazione alla signorina Bingley. Invece, se non era stata la propria vanità a fuorviare Bingley, era lui, col suo orgoglio e il suo capriccio, la causa di tutto quel che Jane aveva sofferto e continuava a soffrire ancora. Per intanto era stato lui a far crollare ogni speranza di felicità nel cuore più tenero, più generoso di questo mondo, e nessuno poteva dire quanto sarebbe durato il male che le aveva arrecato. Sussistevano fortissime obiezioni contro la signorina, aveva detto testualmente il colonnello Fitzwilliam. E codeste forti obiezioni erano magari la verella, uno zio avvocato di campagna e un altro uomo d'affari a Londra. Contro Jane stessa. Non esiste obiezione possibile, bella e buona com'è. Con quella mente aperta, quello spirito educato, quelle maniere così affabili, Né si potrebbe muovere qualche appunto al babbo, il quale, anche se un pochino originale, ha doti che il signor Darcy stesso non sdegnerebbe, e una rispettabilità che egli non raggiungerà forse mai. Vero è, nel pensare alla madre, la sua fiducia si sentì alquanto scossa, ma non volle ammettere che qualche recriminazione in questo senso potesse aver gran peso per il signor Darcy, il cui orgoglio era convinto sarebbe stato più ferito dal fatto che il suo amico non avrebbe avuto parenti in vista, piuttosto che piccoli di cervello. E alla fine si persuase che il signor Darcy era stato in parte guidato da una superbia della peggior specie e in parte dal desiderio di serbare il signor Bingley per sua sorella. L'agitazione e le lacrime causate da questa faccenda le diedero l'emicrania e andò tanto peggiorando verso sera che, sommandosi questa alla ripugnanza di vedere il signor Darcy, la fece venire nella determinazione di non accompagnare i cugini a Rosings, dove erano attesi per il tè. La signora Collins, vedendola realmente poco bene, non insistette, per quanto le fu possibile, impedì al marito di insistere. Il signor Collins, però, non riuscì a nascondere il timore che Lady Catherine si risentisse alquanto per quella diserzione. Capitolo 34. Quando furono usciti, Elizabeth, quasi avesse l'intenzione di lasciarsi esasperare al massimo dal signor Darcy, scelse come occupazione la rassegna di tutti le lettere che Jane le aveva mandato da quando si trovava nel Kent. Non contenevano lagnanze vere e proprie, né vera in esse alcuna rievocazione di avvenimenti passati o alcuna notizia di una sofferenza presente, ma in tutte e quasi in ogni rigo di ciascuna si sentiva la mancanza di quella gaiezza che aveva caratterizzato in passato lo stile di lei e che derivavano da uno spirito sereno, in pace con se stesso e benevolmente disposto verso il mondo intero. Non era quasi mai stata offuscata. Elizabeth pose mente ad ogni frase che manifestasse un certo turbamento con un'attenzione che non aveva dedicato alla prima lettura. Il modo deplorevole in cui il signor Darcy si era vantato della pena che gli aveva saputo infliggere, a cui in Elizabeth il dolore per le sofferenze della sorella. Era già un certo conforto pensare che il soggiorno di Darcy a Rosings sarebbe terminato 2 giorni dopo, ed era consolazione ancora maggiore quella di potersi ritrovare accanto a Jane di lì a una quindicina di giorni. Sì, da contribuire a sollevarle lo spirito con tutte le risorse dell'affetto. Non poteva pensare alla partenza di Darcy dal Kent senza ricordare che anche il cugino se ne sarebbe andato con lui, ma il colonnello Fitzwilliam aveva chiaramente rivelato di non nutrire alcuna seria intenzione e, per quanto simpatico egli fosse, Elizabeth non intendeva rattristarsi per causa sua. Stava appunto prendendo tale determinazione quando fu improvvisamente richiamata alla realtà dallo squillo del campanello e l'animo suo fu alquanto turbato dall'idea che potesse essere lo stesso colonnello Fitzwilliam, che già una volta era stato lì a far visita sera inoltrata e veniva forse adesso per chiedere proprio sue notizie. Ma tale pensiero fu presto scacciato e l'animo suo provò una ben diversa emozione quando, con suo grandissimo stupore, vide entrare nella stanza il signor Darcy. Iniziò subito un'inchiesta sul suo stato di salute, come se avesse fretta, adducendo a pretesto della sua visita il desiderio di sapere se si sentisse meglio. Ella gli rispose con fredda cortesia. Egli si sedette per qualche istante, poi rialzandosi si mise a passeggiare su e giù per la camera. Elisabeth era meravigliata, ma non aprì bocca. Dopo un silenzio di parecchi minuti, egli mosse verso di lei con fare concitato e così cominciò. «Ho lottato invano. Non giova. Non riesco a reprimere i miei sentimenti. Lei mi deve permettere di dirle con quanto ardore io la ammiri e la ami». Lo stupore di Elizabeth superò ogni dire. Ella lo fissò, arrossì, dubitò e tacque, il che parve a lui sufficiente incoraggiamento e mi fece subito seguire la confessione di tutto ciò che egli provava e da molto tempo aveva provato per lei. Parlava bene. Ma vi erano altri sentimenti da precisare oltre quelli del cuore, ed egli non fu più eloquente in tema di tenerezza che di orgoglio. Il senso dell'inferiorità di lei, che il suo amore fosse per lui un abbassarsi, degli ostacoli di famiglia che la ragione aveva sempre opposto alla sua inclinazione, furono sottolineati con un calore che sembrava dovuto al fatto che egli era consapevole di offenderla, ma che non era punto adatto a perorare la sua richiesta. A onta della sua radicata antipatia, Elizabeth non poteva rimanere indifferente all'omaggio che l'affetto di un tale uomo significava, e sebbene le sue intenzioni non variassero un solo istante, sulle prime ella si dolse della pena che stava per infliggergli, finché, Spinta al risentimento dal progredire del discorso di lui, tutta la sua compassione si trasformò in ira. Tuttavia cercò di ricomporsi per rispondergli con calma quando egli avesse finito. Egli terminò con raffigurarle la violenza di un affetto che, malgrado tutti i suoi sforzi, non gli era riuscito di domare e con l'esprimere la speranza che ciò fosse ora compensato dall'accettazione della sua mano. Mentre così parlava, fu chiaro a lei che non aveva il minimo dubbio di ricevere una risposta favorevole. Parlava di timori e di ansie, ma tutto il suo contegno esprimeva una sicura certezza. La qualcosa non poté che esasperarla maggiormente, per quanto egli tacque, Elizabeth con viso in fiamme gli rispose: «In casi come questo, vuole la consuetudine, credo, che si esprima un senso di riconoscenza per i sentimenti che ci vengono rivelati, per quanto inadeguatamente ricambiati. È naturale che si provi questo obbligo e se io potessi provare anche della gratitudine, in questo momento la ringrazierei. Ma non posso. Non ho mai desiderato la sua stima ed è certo che lei me l'ha concessa con la massima riluttanza. Mi spiace di aver dato motivo di pena a chi che sia, ma ciò è stato fatto nel modo più inconsapevole e spero che la pena sarà di breve durata. I sentimenti che, come lei mi dice, le hanno impedito per tanto tempo di rivelarmi il suo affetto, la aiuteranno a soffocarlo dopo questa spiegazione». Il signor Darcy, che stava appoggiato alla mensola del caminetto con gli occhi fissi sul viso di lei, sembrò afferrare il significato di quelle parole con un risentimento non inferiore alla sorpresa. Si sbiancò in viso per la stizza e in ogni suo tratto fu palese il turbamento dell'animo. Stava lottando per riacquistare un'apparente compostezza e non volle aprir bocca finché non fu certo di averla raggiunta. Per lo stato d'animo di Elizabeth quel silenzio fu terribile. Finalmente, in tono forzatamente pacato, gli disse: «Ed è questa la risposta che dovevo aver l'onore di attendermi. Potrei forse sperare di sapere perché io venga respinto così, con così poco sforzo di cortesia, ma ciò ha poca importanza. Potrei chiederle allo stesso modo, perché con l'evidentissimo proposito di offendermi, di recarmi insulto, a lei è garbato di dirmi che io le sono piaciuta contro la sua stessa volontà, contro la sua ragione, persino contro il suo temperamento. Non è questa una modesta attenuante per la mia scortesia, se è vero che sono stata scortese? Del resto sono stata provocata in altra maniera, lei lo sa. Se i miei sentimenti non avessero deciso in suo favore, se fossero stati indifferenti o magari anche favorevoli, crede lei che qualsiasi considerazione mi avrebbe indotto ad accettare l'uomo che è stato forse per sempre la causa della rovina della felicità di una sorella amatissima?» Mentre Elizabeth pronunciava quelle parole, il signor Darcy mutò di colore, ma l'emozione fu breve ed egli la stette ad ascoltare senza tentare di interromperla mentre ella così continuava: «Ho tutti i motivi del mondo per avere di lei una cattiva opinione. Non c'è nulla che possa giustificare la parte ingiusta e ingenerosa da lei sostenuta in quella faccenda. Lei non osa, non può negare di essere stato lo strumento principale, se non l'unico, per separare quei due, esponendo l'una alla critica del mondo per la sua capricciosa incostanza, l'altra alla beffa della delusione, precipitando entrambi nella più profonda disperazione». Tacque e vide con non poco sdegno che egli la stava a sentire con un'aria che testimoniava della sua assoluta incapacità a qualunque sentimento di rimorso. Anzi, egli la guardava con un sorriso di ostentata incredulità. «Può negare di aver fatto questo?» «Non desidero affatto negare di aver fatto ogni cosa in mio potere per separare il mio amico da sua sorella o di congratularmi per il buon esito dei miei sforzi. Ho provveduto meglio al suo bene che al mio». Elizabeth sdegnò di raccogliere anche soltanto in apparenza questo gentile pensiero, ma il suo significato non le sfuggì, né era atto a conciliarla con lui. «Ma non è soltanto questa la ragione della mia antipatia. Molto prima che ciò accadesse, la mia opinione nei suoi confronti era formulata. Il suo carattere mi è stato rivelato nel racconto che molti mesi fa mi fece il signor Wickham. Su questo punto che cosa può aver da dire? Dietro quale immaginario atteggiamento d'amicizia si può trincerare lei per questo? O con quale mistificazione può ancora imporsi al prossimo?» «Lei prende vivo interesse alle faccende di quel signore», fece Darcy con un tono meno pacato e più acceso in volto. «Chi, conoscendo quali sono state le sue sventure, può a meno di interessarsi a lui?» «Le sue sventure», ripete Darcy sprezzamente. «Già, le sue sventure sono state grandi davvero e provocate da lei. È lei che lo ha ridotto nel suo stato attuale di indigenza, di relativa indigenza. Lei ha revocato i privilegi che doveva sapere essergli stati destinati. È lei che ha privato gli anni migliori della sua vita di quell'indipendenza che per lui erano non meno dovuta che meritata. È lei che ha fatto tutto questo ed è ancora capace di raccogliere con sprezzo e con scherno l'accenno alle sue sventure. E questa, esclamò Darcy mentre attraversava la stanza a passi concitati, è l'opinione che lei ha di me. Questa è la stima in cui mi tiene. La ringrazio per avermelo spiegato così chiaramente. Le mie colpe in base a tali congetture sono senza dubbio gravissime, ma forse queste offese sarebbero state giudicate con indulgenza se il suo orgoglio non fosse stato ferito dalla mia sincera confessione degli scrupoli che per tanto tempo mi avevano impedito di formulare seri propositi. Forse queste gravi accuse sarebbero state taciute se io con maggiore diplomazia avessi celato le mie intime lotte e l'avessi lusingata tanto da indurla a credere di aver sospinto da una pura inclinazione senza riserve, dalla ragione, dalla riflessione, da qualunque cosa. Ma io aborro da simulazioni di qualunque genere, ne provo onta per i sentimenti che le ho esposto. Erano giusti e naturali. Poteva pretendere che io mi rallegrassi dell'inferiorità di rango dei suoi congiunti? Che mi felicitassi con me stesso al pensiero di imparentarmi con persone la cui posizione sociale è così nettamente al di sotto della mia. Elizabeth sentiva crescere il suo sdegno ad ogni istante. Cionondimeno fece il possibile per parlare con calma quando rispose: Lei si sbaglia, signor Darcy, se crede che il modo della sua dichiarazione abbia potuto toccarmi altrimenti, se non in quanto mi ha risparmiato la pena che avrei potuto provare rifiutandola se lei si fosse comportato più da gentiluomo. Lo vide sussultare a queste parole, ma non le disse nulla ed ella proseguì. Non avrebbe potuto offendermi la sua mano in nessun modo al mondo capace di indurmi ad accettarla. Di nuovo apparve evidente la sua sorpresa ed egli la guardò con un'espressione di incredulità mista d'umiliazione. Elizabeth continuò. Fin dall'inizio, fin dal primo istante, direi quasi che l'ho conosciuta, i suoi modi, palesandomi appieno tutta la sua alterigia, la sua presunzione, il suo egoistico sdegno degli altrui sentimenti, furono tali da costituire quella base di disapprovazione sulla quale gli avvenimenti che seguirono hanno costruito una così irriducibile antipatia. E non era ancora un mese che la conoscevo, che già sentivo che lei era l'ultimo uomo al mondo che mi sarei mai lasciato indurre a sposare. Ha detto abbastanza, signorina. Comprendo perfettamente i suoi sentimenti e non mi rimane che vergognarmi per ciò che sono stati i miei. Mi perdoni per averle rubato tanto tempo ed accetti i miei migliori auguri di salute e felicità. E con queste parole lasciò affrettatamente la stanza. Un minuto dopo, Elizabeth lo udì aprire la porta di casa ed uscirne. Allora la sua mente prese a tumultuare in maniera assai dolorosa. Non sapeva come farsi forza e fu proprio per debolezza che si sedette e pianse per una mezz'ora. Riflettendo sull'accaduto, il suo stupore aumentava da qualunque lato lo considerasse. Ricevere una proposta di matrimonio dal signor Darcy. Che fosse stato innamorato di lei da tanti mesi. Tanto innamorato da volerla sposare ad onta di tutte le obiezioni che l'avevano indotto a trattenere l'amico dallo sposare la sorella di lei. E che poi quelle obiezioni dovessero riprendersi almeno con pari veemenza nel proprio caso era quasi incredibile. Era lusinghiero l'aver inconsciamente ispirato un affetto così profondo, ma il suo orgoglio, quel suo abominevole orgoglio, quella sua spudorata confessione che ciò che aveva fatto nei confronti di Jane, quella sua imperdonabile sicurezza di sé nell'ammetterlo, benché non sapesse come giustificarlo, e la freddezza con cui aveva parlato del signor Wickham, senza tentare di negare la propria crudeltà nei suoi riguardi, tutto ciò ebbe presto il sopravvento sul senso di compassione che il pensiero del suo amore aveva per un momento destato. Elizabeth continuò nelle sue agitatissime riflessioni finché il rumore della carrozza di Lady Catherine le fece sentire tutta la sua incapacità di affrontare le osservazioni di Charlotte e la sospinse frettolosamente in camera sua.